I met him three times, once in Sudan, twice at his camps in Afghanistan. Il terrorismo internazionale e quello interno, le conseguenze dell'uccisione di Bin Laden, ma anche la storia di una vittima degli anni di piombo cancellata dalla burocrazia. Sono Raffaella Calandra e vi aspetto sabato alle 13.15 con Storiacce su Radio 24. Anche sul canale 700 di Sky.